Capitolo 7. Il pettirosso. 2 giorni dopo, appena sveglia, Mary si tirò a sedere sul letto e, guardando dalla finestra, vide uno spettacolo così bello che non poté fare a meno di chiamare Marta per dividere questa gioia con lei. Guarda, Marta, guarda la brughiera oggi, com'è bella! La pioggia e le nuvole grigie dei giorni precedenti erano sparite, spazzate via dal vento che aveva soffiato durante la notte. Ora anche il vento se n'era andato, lasciandosi dietro un bellissimo cielo azzurro intenso e un bel sole radioso. Mary non aveva mai neppure immaginato che il cielo potesse avere un colore simile. In India il caldo rarefaceva il colore del cielo. Guardando in su si vedeva una volta di un indefinibile grigio azzurrino dalla quale si riportava un'impressione di calore ardente. Il cielo che lei vedeva ora sulla brughiera era di un colore brillante e cristallino, dava un'impressione di fresco, tanto da sembrare un enorme lago tranquillo, dalle acque azzurre e azzurre, sulle quali navigavano come candidi fiocchi di spuma nuvolette leggere. Il lontano mondo della brughiera sembrava essere tutto azzurro. Anche lui, quel giorno, anziché violetto e grigio come nei giorni passati. Sì, disse Marta allegramente. Per fortuna il brutto tempo è finito, adesso sarà bello per un pezzo. Succede sempre così all'inizio della primavera. In una notte il tempo cambia e il giorno dopo sembra impossibile che possa tornare la pioggia. Ancora ce ne vuole perché possiamo dire di essere in primavera, ma queste burrasche ci dicono che sta arrivando. Pensavo che in Inghilterra il tempo fosse sempre brutto, che piovesse sempre e che il cielo fosse sempre grigio. Eh no, esclamò Marta. No, davvero. E quando c'è il sole, lo Yorkshire è il paese più luminoso del mondo. Ti avevo detto che la brughiera ti sarebbe piaciuta un giorno. E ancora non è niente. Vedrai quando l'erica e la ginestra saranno fiorite e le farfalle e le api voleranno sopra i fiori gialli e lilla e le allodole canteranno, felici. Allora ti verrà voglia di alzarti all'alba e andare a correrci dalla mattina alla sera, come fa Deacon. Dovresti andarci. Ma io ci potrò mai andare? Chiese pensierosa Mary, non staccando gli occhi da quell'azzurro che l'affascinava. Era una tonalità talmente nuova per lei da sembrarle irreale. Non so, mi fa l'idea che tu non abbia mai usato le gambe per percorrere 5 miglia, e da qui alla nostra casa ci sono 5 miglia. Oh, mi piacerebbe andare a casa tua. Marta la fissò per un attimo. Com'era cambiata questa bambina dal giorno del suo arrivo? Ora non aveva più quell'aria dispettosa e arrogante quando parlava con lei. Ora le ricordava una delle sue sorelline. Bene, ne parlerò alla mamma. Lei trova sempre il modo di risolvere le cose. Sai, oggi è il mio giorno di riposo e quando ho finito qui di darti la colazione vado a casa. Gliene parlerò. Lei conosce Mrs. Medlock. Chissà. A me la tua mamma piace molto, Marta. Ci avrei scommesso, approvò Marta, continuando a spazzolare il tappeto. Anche se non l'ho mai vista, precisò Mary. È vero, non l'hai mai vista. Si sedette sui calcagni e passò il dorso della mano sulla punta del naso, come per aiutarsi a pensare. Però, disse poi, lei è così gentile, così buona, così pulita, così disponibile e generosa, che non c'è nessuno che non riesca ad amarla, l'abbia vista o no? Quando io vado a casa nel mio giorno libero, salto e ballo nella brughiera dalla gioia che ho, pensando che fra poco sarò vicina a lei. Ma a me piace anche Deacon, e non conosco nemmeno lui. Bene, disse ancora Marta. Ti ho detto che tutti gli uccelli, i conigli, le pecore selvatiche, i pony, perfino le volpi gli vogliono bene. Mi chiedo cosa penserebbe lui di te. Ah, sono sicura che non gli piacerei, affermò Mary riprendendo per un istante il suo tono di un tempo. Io non piaccio a nessuno. Marta sembrò riflettere un po'. Ma a te stessa tu piaci? C'era molto interesse nella sua voce. Mary esitò un attimo pensando a che cosa doveva rispondere. Proprio per niente, disse infine, e poi aggiunse con un sorriso: Ma sai una cosa, Marta? Non mi ero mai posta questa domanda. Non avevo mai pensato a questo fatto. Marta sorrise anche lei. Un giorno ero di cattivo umore e parlavo male di tutto e di tutti. La mamma stava lavando i piatti e a un certo punto si volse verso di me e disse: "Insomma, non te ne va bene una. Non ti piace Tizio, Caio non ti va. Ma tu che critichi tanto gli altri, ti sei mai guardata? E di te, cosa pensi? Ti piaci?" Mi fece ridere questa domanda, non ci avevo mai pensato, nemmeno io, ma mi fece capire che ero andata fuori dal seminato. Finì di preparare la colazione per Mary, mise tutto sulla tavola, poi salutò la bimba e se ne andò via tutta allegra. Ora deve fare 5 miglia a piedi. Poi, quando arriva, deve aiutare la mamma a lavare i panni di tutta la famiglia, a fare il pane per 2 settimane. Eppure è contenta, è felice di andare a casa sua, riflette Mary. Si sentiva più sola che mai quel giorno, senza Marta. Perciò decise di scendere subito in giardino, sperando di trovare qualcosa da fare e soprattutto qualcuno con cui parlare. Cominciò facendo 10 giri di corsa intorno alla fontana. Li contò ad uno e si sentì orgogliosa di essere riuscita a farne tanti. C'era un sole meraviglioso nel giardino e tutto sembrava più bello, diverso. Come mi piacerebbe salire su una di quelle nuvole e andare in giro per quel cielo così celeste, si disse guardando in alto. Si diresse poi verso il primo orto e vi trovò Ben con altri 2 giardinieri. Il bel tempo aveva avuto un buon effetto anche su di lui. Le rivolse la parola, tutto allegro. «La primavera è vicina», disse. «Senti il suo profumo?» Mary annusò l'aria. «Sento un buon profumo di fresco e di umido». «È il profumo di questa buona terra fertile», spiegò lui, continuando a vangare. «La terra è contenta perché si prepara ad accogliere i semi e a fargli germogliare ed esprime la sua gioia con questo odore così piacevole». D'inverno non c'è niente di simile. Nel giardino dove ci sono le piante che rifioriscono ogni anno c'è già un gran lavorio sotto la terra, al buio. Il sole con il suo calore riscalda i bulbi e vedrai tra poco spuntare delle cosine tenere e verdi fra la terra scura. Che cosa sono? Sono quelli che poi crescendo diventeranno i crocus, i bucaneve, i narcisi. Lo sai cosa sono? Come fanno, vero? No. In India, dopo le piogge, tutto viene fuori dalla terra in una notte. Beh, qui ci vuole ben di più. Mettono fuori fogliolina per fogliolina. Potrai seguire il crescere di una pianta, se vorrai. Oh, sì! Furono interrotti da un frullare d'ali ed ecco il pettirosso lì fra loro. Era molto allegro e saltellava senza posa, vicinissimo ai piedi di Mary. Tu credi che mi riconosca? Che si ricordi di me? Chiese lei a Ben. Come no? Rispose quasi indignato il vecchio. Lui conosce tutto e tutti qui. Sa certamente quante foglie ha quel cavolo e quante quell'altro. Figurati, con le persone. Non c'è mai stata una ragazzina qui prima di te e lui ora vuole scoprire tutto di questo nuovo personaggio. Non avere segreti con lui. Aiutalo. Va bene. Ma senti, a proposito di tutto quel lavorio sottoterra di cui parlavi prima, succede anche nel giardino dove vive lui? Quale giardino? Quello dove ci sono quei vecchi alberi di rose. Sono tutte morte le piante là dentro? Oppure in primavera qualcuna tornerà a fiorire? E ci sono solo rosai? O anche come dicevi prima, quei nomi? Perché non lo chiedi a lui? Disse Ben indicando il pettirosso. Lui può risponderti perché vive là. Nessun altro ci ha messo più piede da 10 anni. 10 anni sono tanti, pensò la bambina. Io sono nata poco più di 10 anni fa e se ne andò pensierosa perché Ben si era rimesso a lavorare e non sembrava più che volesse continuare il dialogo. Mary stava riflettendo su se stessa, sulla sua vita. Doveva ammettere che da quando era in Inghilterra molte cose erano cambiate per lei. Si sentiva diversa ora, cominciava a piacerle la gente, aveva tanti amici ormai, Ben, Marta, il pettirosso e poi anche la mamma di Marta e Deacon, anche se questi ultimi non li aveva mai visti. Si avviò lungo il viale esterno e cominciò a correre lungo il muro coperto d'edera, sopra il quale si vedevano spuntare le cime degli alberi più alti. Cercava di vedere se il pettirosso era su uno di quei rami. Ma mentre lo cercava lassù, ecco che un frullio di ali le fece girare la testa verso un'aiuola e vide l'uccellino che stava becchettando nella terra smossa. L'idea che lui l'avesse seguita la commosse. «Allora mi sei davvero amico! Mi vuoi bene! Sei il pettirosso!» pettirosso più simpatico del mondo. Si avvicinò pian piano a lui e cercò di imitarne il gorgheggiare. Come la volta precedente, l'uccellino le rispose e saltellò con lei. La bambina era felice. Sentiva che c'era veramente una corrente di simpatia fra loro e gli era grata di essere venuto fin lì a cercarla. Il pettirosso continuava la sua ricerca di cibo fra le zolle. Un cane o un altro animale avevano scavato un buco profondo, forse per nasconderci un osso o qualche altra cosa, e l'uccellino c'era quasi entrato dentro in cerca di vermiciattoli o sementi. Mary si inginocchiò per seguire più da vicino le avventure del suo amico ed ecco che improvvisamente lo vide accanirsi col becco su qualcosa di metallo. Sembrava un anello di ottone o di ferro. Mary allungò la mano per aiutarlo e per vedere cosa fosse quell'oggetto. Il pettirosso volò via e si posò sul ramo di un albero. Mary infilò il dito in quell'anello e tirò, e dalla terra uscì una chiave, tutta sporca e un po' sciupata, ma era una chiave. Forse sei stata sottoterra per 10 anni, le bisbigliò Mary. Forse sei proprio tu la chiave del giardino segreto. Capitolo 8. La casa più strana del mondo. Mary rimase a girare e rigirare la chiave fra le mani per un bel pezzo, formulando 1000 ipotesi, ma quella che più le piaceva era naturalmente pensare di aver trovato la chiave del giardino segreto. Ah, se riuscissi a trovare la porta, potrei provare ad aprirla. Come sarei felice se potessi davvero entrare in quel giardino. Chissà com'è là dentro adesso. Chissà se i rosai sono tutti morti. Se riuscissi a entrarci, vorrei andarci tutti i giorni, chiudere la porta dietro di me e restare lì a giocare senza che nessuno possa immaginare dove sono. Tutti continuerebbero a pensare alla chiave sottoterra, a nessuno verrebbe in mente di cercarmi lì. Vivere sempre da sola in una casa con tante misteriose porte chiuse, non avendo niente da fare, niente con cui giocare, niente con cui divertirsi, aveva svegliato il suo cervello e ancor più la sua fantasia. La buona aria pura e fresca della brughiera aveva dato senza dubbio un gran contributo a questo suo cambiamento. In India si sentiva sempre troppo affaticata e debole per poter seguire a fondo qualsiasi cosa. Ora invece era nato in lei un forte interesse per le persone e le cose che la circondavano e non era ormai più una signorina sempre no, immusonita e scostante. Mise la chiave in tasca e cominciò a passeggiare su per il viale. Non si vedeva anima viva lì intorno e così lei pensò che poteva tranquillamente osservare il muro da vicino alla ricerca della porta. Se non ci fosse tutta quest'edera, non è proprio possibile vederci attraverso, mormorò fra sé. Le foglie verde scuro sembravano crescere sotto i suoi occhi sui rami lunghi e avvinghiati l'uno all'altro in un intreccio fittissimo. Continuò le sue ricerche per un bel po' di tempo, poi decise di tornare a casa perché si sentiva stanca e scoraggiata. Mentre camminava, stringeva però la chiave che aveva in tasca. D'ora innanzi la porterò sempre con me, decise. Così, se per caso un giorno o l'altro mi riuscirà di trovare quella benedetta porta, potrò fare subito la prova. La mattina dopo, Marta era più allegra del solito. Aveva le guance bianche e rosse, gli occhi brillanti, un bel sorriso sulle labbra e tanta voglia di parlare. Pensa, mi sono alzata alle 4 stamattina. Mrs. Medlock mi aveva dato il permesso di dormire a casa stanotte, purché oggi fossi stata puntuale al lavoro. Dovevi vedere com'era bella la brughiera, con gli uccelli che si svegliavano e cantavano, i conigli selvatici che saltellavano qua e là, e il sole che sorgeva. E poi, pensa che fortuna, ho incontrato un uomo che veniva in qua con il suo cavallo e il suo carretto e mi ha dato un passaggio. Così ho fatto proprio una passeggiata da signora. Aveva tante cose da raccontare. Com'era stata contenta la mamma di vederla. Insieme avevano fatto il bucato grande e preparato il pane per 15 giorni. Ti immagini, Mary, quanta roba da lavare c'era? Lenzuola, tovaglie, asciugamani, i grembiuli, le federe. La mamma lava via via la biancheria del papà e dei bambini, ma per il bucato grosso aspetta me. E il pane, ah, come mi piace impastarlo, anche se è faticoso, eh. Sai, per i bambini abbiamo fatto anche dei biscotti mettendo un po' di zucchero in un pezzetto della pasta del pane. Sentissi che buon odore per tutta la casa con quel pane che cuoceva nel forno. Alla sera ci siamo riuniti tutti davanti al fuoco e ho raccontato di te. Ho detto che vieni dall'India, ho parlato anche dei neri. Insomma, di quelli che io chiamo neri. E ho detto che non sapevi neanche infilarti le calze e i guanti, che eri abituata a farlo fare alla tua aia. Vedessi come si sono divertiti. Volevano sapere tante, tante cose dei neri, della nave con cui sei venuta, del viaggio. Io non sapevo rispondere a tutto. Bene, Marta, ti racconterò tante cose prima che tu torni a casa il mese prossimo. Penso che piacerà ai tuoi fratellini sentir parlare degli elefanti, dei cammelli, delle tigri. E come? Mi racconterai davvero queste cose? Ho tanta voglia di sentirle anch'io, sai? E dimmi, Marta, cosa pensano di me la tua mamma e Deacon? Beh, gli occhi di Deacon stavano per uscirgli dalle orbite quando ascoltava i miei racconti. La mamma, beh, lei è preoccupata perché pensa che tu sia troppo sola. Forse Mr. Craven dovrebbe prenderti una governante. No! Io non la voglio una governante. Ma la mamma dice che dovresti anche studiare un po', essere seguita da qualcuno che ti insegni qualcosa. Tu non vai a scuola, passi il tuo tempo qui in questa casa così grande. E la mamma pensa che tu ti senta un po' spersa, mi ha raccomandato di farti compagnia il più possibile. Mary le rivolse uno sguardo in cui apparivano affetto e riconoscenza. Tu mi fai davvero compagnia con le tue storie, disse. Marta uscì dalla stanza e ritornò poco dopo, nascondendo qualcosa sotto il grembiule. Indovina cosa c'è qua sotto? È un regalo per te. Un regalo? Per me? Esclamò Mary e pensò come poteva una famiglia povera con 14 persone da sfamare comprare un regalo per lei. Sai, ieri è passato da casa uno di questi ambulanti che vendono di tutto e che vanno con il loro carro a cercare i casolari sparsi nella campagna. La mamma gli ha detto che non aveva bisogno di niente perché in realtà non aveva soldi da spendere. Lui stava per andarsene quando Lisa ha scoperto fra le varie pentole e pezze di stoffa una corda per saltare e ha detto alla mamma: "Vieni a vedere com'è bella, ha i manici rossi e blu". La mamma si è avvicinata, ha chiesto il prezzo. 2 pennies. Marta, ha detto la mamma, tu mi hai portato il tuo salario oggi. Pensi che possiamo togliere 2 pennies e comprare una corda da saltare per quella bambina? Così l'ha comprata ed eccola qua. La tirò fuori da sotto il grembiule e la mostrò con orgoglio. Ma Mary Lennox non aveva mai vista una corda per saltare fino ad allora. Che cos'è? A cosa serve? Chiese incuriosita. Non ci posso credere, esclamò Marta. Vuoi dire che non esistono corde per saltare in India? Cammelli, elefanti, tigri, sì, e corde per saltare no. Guarda a cosa serve. Corse nel mezzo della stanza e tenendo un manico per mano cominciò a saltare, saltare, saltare, mentre Mary guardava incuriosita e divertita. Marta era felice di vedere l'espressione del viso di Mary e così continuò a saltare, contando i suoi salti finché giunse a 100. Potrei continuare ancora, disse ansando un poco. Quando ero più magra riuscivo a farne anche 500, ma ora sono più grassa e fuori esercizio. Mary si era alzata dalla sua sedia e veniva verso di lei. Deve essere divertente, disse. La tua mamma è stata molto gentile a mandarmela. Tu pensi che ce la farò a imparare? Prova, la incoraggiò Marta, porgendole la corda e facendole vedere come doveva tenere i manici. Non ne farai subito 100, ma con un po' di esercizio. La mamma dice che è il giocattolo migliore per un bambino. Se vai fuori all'aria aperta e ti eserciti a saltare, rinforzi i muscoli delle gambe e delle braccia e diventi più alta e più forte. Mary tentò i primi approcci. Non le riusciva molto bene saltare a tempo giusto, ma il gioco le piaceva e così continuò ad insistere finché riuscì a fare 3 o 4 salti di fila. Copriti bene e va fuori a saltare all'aperto, consigliò Marta. Mary si infilò subito la giacca pesante, si calcò in testa il berretto di lana e con la corda avvolta intorno al braccio si avviò per uscire, ma quando giunse alla porta si voltò, come colta da un pensiero improvviso. Marta, disse, quei 2 penny li hai presi dal tuo salario. Grazie. Pronunciò queste parole con una certa rigidezza, perché non era abituata a ringraziare nessuno o a notare che qualcuno faceva qualcosa per lei. Si avvicinò a Marta e le porse la mano. Voleva manifestare la sua gratitudine, ma non sapeva più cosa dire. Marta prese la mano, gliela strinse con una certa goffaggine perché non era abituata a questo genere di cose. Ma sei proprio una strana bambina, esclamò poi. Se tu fossi stata Liz mi avresti dato un bacio. Mary si irrigidì ancora di più. Tu vorresti un bacio? Marta rise. No, non dico questo. Avresti dovuto essere tu a volermelo dare, ma non fa niente, se non vuoi. Vai, vai fuori a saltare con la tua corda. Sempre no, si sentì un po' imbarazzata e decise di troncare quella situazione andandosene. Che gente strana è questa dello Yorkshire. Io Marta non la capisco mica sempre. I primi giorni non la potevo proprio sopportare. Poi, conoscendola, no, ora mi piace, ma non la capisco sempre. Questo andava ripetendosi per calmare il suo disagio. Giunta in giardino, però, e cominciato a usare la corda, si dimenticò di tutto. Saltava e contava, mentre le sue guance diventavano belle rosse e lei si sentiva contenta come non lo era mai stata. Il sole brillava e un leggero venticello portava quel fresco profumo di terra rimossa di cui aveva parlato Ben e che ora Mary aveva imparato a conoscere. Fece il giro della fontana, sempre saltando, e andò su e giù per i viali finché vide da lontano Ben che stava lavorando in un orto e parlando con il pettirosso. Si avvicinò a loro, saltando. Era curiosa di vedere cosa il vecchio pensasse di lei, vedendola saltare alla corda. Ben alzò la testa. Oh, finalmente, esclamò. Sono contento di vederti giocare come tutti gli altri bambini. Sai, pensavo che tu avessi siero di latte invece di sangue nelle vene. A vederti sempre così pallida e senza giocare. Ma oggi, com'è vero che mi chiamo Ben Weatherstaff, sembri un'altra. Non avevo mai fatto questo gioco. Sto imparando, disse Mary. Posso arrivare solo fino a 20 salti senza sbagliare. Non c'è male per la prima volta, approvò Ben. Devi continuare. Guarda come ti osserva anche lui. Indicò con la mano il pettirosso. Ti ha seguito ieri, no? Vedrai oggi, non ha mai visto una corda da saltare, vorrà rendersi conto di che cos'è. È davvero un po' troppo curioso a volte, eh? Ho paura che finisca male se non sta attento. Mary continuò il suo giro dei giardini, sempre saltando, e alla fine sbucò nel suo viale preferito. Pensò di percorrerlo tutto saltando, ma giunta a metà, era così sudata e aveva il fiatone così forte che dovette smettere. Era soddisfatta però perché era arrivata a contare 30 salti. Si sedette sul bordo di un'aiuola e dopo un po' ecco il suo amico pettirosso posarsi su un ramo di edera che ondeggiava vicino a lei. Mary mise una mano in tasca per toccare la chiave. Ieri mi hai fatto trovare la chiave, disse parlando all'uccellino. Oggi dovresti farmi trovare la porta, ma sarebbe troppo bello che tu sapessi dov'è. L'uccellino sembrava ascoltarla. Poi, dal ramo dondolante dov'era, volò sul muro e di là lanciò una nota acutissima seguita da un lungo gorgheggio. Voleva farsi notare e ci riusciva. Mentre Mary lo guardava, una folata di vento più forte delle altre fece ondeggiare i rami degli alberi e sollevò la cortina d'edera che copriva il muro. Mary si era avvicinata al pettirosso e si trovava proprio addossata ai rami d'edera mossi dal vento. Aveva sentito tante volte parlare di incantesimi dalla sua Aya e quando ripensò dopo a quello che le era successo quella mattina, affermò sempre che solo per un incantesimo le cose potevano essersi svolte in quel modo. Fatto sta che mentre guardava l'uccellino e si appoggiava con la mano ad un ramo d'edera, vide gli altri rami vicini mossi dal vento scoprire qualcosa che le fece battere il cuore, una maniglia di metallo, rotonda, che era stata fino allora nascosta dalle foglie verde scuro. Tremando per l'emozione, Mary introdusse le piccole mani attraverso l'intrico dei rami e cercò di raggiungere quel pomolo di metallo per farlo girare. Ci riuscì, con il cuore che le batteva in gola per la gioia e l'eccitazione. Il pettirosso continuava a cantare e a saltellare e sembrava felice come lei. Mary continuava a palpare sotto la coltre d'edera. Sotto il pomo lo sentiva una cosa quadrata di metallo e finalmente le sue dita scoprirono una serratura. Era quella la porta che cercava. Tirò fuori la chiave con le mani che le tremavano e la provò nella serratura. Ci andava giusta, ma non girava. C'era della ruggine e della terra che lo impedivano. Mary cercò di ripulire come meglio poté, poi usò tutte e due le mani per fare forza. Non si sarebbe mai creduta capace di tanto, ma alla fine la chiave girò. Mary si lasciò andare indietro con un respiro profondo, si guardò intorno per vedere se nessuno l'aveva vista, ma i viali erano deserti, come sempre. Respirò di sollievo, poi si piegò un poco per passare sotto la coltre di edera, si appoggiò alla porta e la spinse piano piano. La porta si aprì. Lesta, lesta, Mary scivolò dentro e la richiuse subito. Stette un attimo immobile, con le spalle appoggiate alla porta per calmare il suo respiro affannato per l'eccitazione, la meraviglia e la gioia. Ce l'aveva fatta! Era entrata dentro al giardino segreto.